elementi singoli che succedono anche separatamente in tempi diversi, poi vengono a convergere e quindi si compone un quadro che ha un senso anche a prescindere dagli elementi singoli. Come avrà spiegato l'avvocata, la vicenda di Aldo è una vicenda che nasce all'interno di un allargamento in settore strategico e dentro un territorio strategico che è Modena, e quindi si sarebbe tentati di guardarla come una vicenda locale al massimo, e in realtà a ridosso di quella vicenda lì, a cui diciamo risonanza nazionale già avrebbe dovuto mettere in allerta, perché per le nostre vertenze non abbiamo mai ricevuto i titoloni dei giornali come li ricevemmo per quella vicenda, per quella vicenda giudiziaria. Quella vicenda è stata poi il preannuncio di una serie di altri attacchi che gli hanno dato, abbastanza sconvolgenti, che sul piano repressivo gli hanno dato anche un senso più compiuto. Quello che citavi tu è sicuramente il più significativo. Un rappresentante della Confetra, che è l'associazione una delle associazioni diciamo imprenditoriali del settore della logistica, che è con noi, ha avuto come dire dei tentativi rapporti sindacali che non si sono poi tramutati in accordi nazionali come con altre associazioni imprenditoriali, per la loro determinazione a rifiutare diciamo il pacchetto di diritti e rigidità che noi conquistiamo in altri diciamo subsettori della logistica, come quello dei corrieri. Dicevo che il rappresentante di questa associazione imprenditoriale ha espressamente chiesto al ministro Salvini, all'interno del decreto sicurezza che si occupava di popolazioni migranti e di accesso al territorio nazionale, una misura che colpisse le pratiche di sciopero del SICOBAS. Questo abbastanza e ovviamente è stato accontentato con qualche cautela poi interpretativa rispetto alla prima stesura della ripenalizzazione del blocco statale, che era addirittura delirante, perché prevedeva che praticamente qualsiasi manifestazione fatta da un nucleo di persone in mezzo a una strada fosse sanzionata con 12 anni di carcere. Adesso diciamo l'interpretazione legislativa dell'articolo presente nel decreto di sicurezza è stata un po' ridimensionata, ma il dato politico vero è che un'associazione imprenditoriale ha richiesto su commissione al governo un provvedimento legislativo di tipo sanzionatorio penale per risolvere delle controversie sindacali. Quindi lì dove molti si aspettavano che il movimento della logistica si spegnesse tutto sommato e si esaurisse col tempo da solo, visto che oramai comunque sono anni che anche senza particolari relazioni in altri settori produttivi il movimento della logistica continua, allora si pensa anche a delle azioni di forza per farlo cessare. Questa è una roba che in realtà non riguarda solo il SICOBAS o la DL OBAS, che è l'associazione sindacale sorella del SICOBAS nel movimento della logistica, e dovrebbe riguardare tutti quanti, perché una volta che si supera questo muro in cui si trascina di nuovo la vertenza sindacale puramente sul piano penale, come era diciamo negli stati pre-democratici, si è separato un muro in cui poi è difficile dire che toccherà solo al Sicobas. E proprio riprendendo quanto stavi dicendo, non troviamo stupefacente il fatto che queste misure repressive vengano messe in campo ora, perché è bene ricordare che quanto fatto in questi anni dal Sicobas, ma non solo, da tutte insomma quelle organizzazioni politiche e sindacali che hanno agito nel mondo della logistica, hanno prodotto delle vittorie importanti, dei miglioramenti concreti e reali nelle condizioni di vita e di lavoro delle persone, e probabilmente proprio una certa pratica di lotta e di relazione sindacale è stato uno degli strumenti vincenti. E non mi sembra un caso che proprio oggi, grazie poi a questo governo che non fa che non nasconde di essere espressione della parte più retriva e autoritaria del paese, si attacchi una delle punte avanzate del movimento operaio in Italia, e si attacchi in una maniera abbastanza nuova, come ci sta, cioè da un lato nuova e da un altro lato vecchia, cioè si cerca di riportare la lotta sindacale a una questione di ordine pubblico, in sostanza, come se cancellando il portato di un secolo di storia circa, cioè cancellando tutto quel riconoscimento e quella legittimità che gli operai e le operaie hanno conquistato in un secolo di lotte all'incirca, con il sangue, con gli scioperi, con le rivoluzioni in tutto il mondo. E è un dato abbastanza preoccupante questo, come commentavamo anche prima con l'avvocata, ma d'altra parte secondo me c'è anche un dato positivo, che è invece la risposta a queste misure repressive. Infatti l'appello che il Sicobas ha prodotto è stato sottoscritto da centinaia se non migliaia di persone in tutta Italia, e ha prodotto un moto di indignazione abbastanza largo, e anche se non sbaglio qualche azione di sciopero. Cioè ci sono stati degli scioperi proprio nel territorio modenese ultimamente che tra le varie cose hanno parlato anche di questa sentenza, giusto? Mi confermi? Diciamo che è prevista una giornata di mobilitazione per il 6 aprile, e che all'indomani dell'arresto di Aldo scattò uno sciopero nazionale e trasversale in tutti i magazzini, in tutti i settori dove eravamo, ma anche, lo devo dire, spontaneamente dichiarato dai comitati di base nei vari posti di lavoro, per rispondere a questa infamia, ed è stato in realtà quello che ha dato la misura e la forza della risposta operaia a questa posizione, a forse anche ridimensionato tipo le aspettative repressive di qualcheduno. Quindi sicuramente sì, siamo soddisfatti di questa tenuta della forza dimostrata ancora dal corpo dell'associazione, però questa soddisfazione in realtà non può bastare, perché il piano su cui siamo chiamati al conflitto dal governo è un piano politico complessivo, quindi riguarda l'intero mondo del lavoro, riguarda quei settori di movimenti sociali conflittuali che subiscono lo stesso trattamento, dal movimento per il diritto all'abitare ai movimenti ambientali, riguarda la parità di accesso ai diritti essenziali per la popolazione straniera in Italia. E quindi è una roba sulla quale siamo chiamati davvero tipo alla comprensione alla convergenza più larga e alla comprensione del tipo di momento. Io vorrei anche dire una cosa, nel senso, poi può sembrare che la questione delle pratiche di lotta sia in realtà il punto dove inizia e finisce tutto. In parte sicuramente si vogliono costruire le pratiche di lotta, ma in parte non è che si identifica una pratica di lotta come il blocco, come illegale, la si ridefinisce come illegale e finisce lì, perché anche il blocco in realtà viene praticato lì dove solitamente in un settore come la logistica salta ogni normativa di base del diritto del lavoro, dalle corrette retribuzioni secondo contratto nazionale alle normative sul cambio d'appalto, eccetera eccetera. E allora a quel tipo di scontro e di infrazione legislativa viene proposta una pratica, un certo tipo di pratica di lotta. Se si vuole definire illegale il blocco, è perché in realtà si vuole dire che va bene il mondo della logistica come ha funzionato fino all'anno 2010, cioè va bene quel mondo della logistica che ha prodotto inchieste che hanno quantificato l'evasione fiscale e contributiva di un colosso delle false cooperative come GESCO in 1,5 miliardi di euro. Quindi vuol dire che la risposta padronale alla crisi è ritornare su quel modello di assoluta barbarie, di assoluta violazione di ogni minima norma del mercato del lavoro e di assoluto arbitrio padronale. E quindi direi che proprio se riusciamo a capire che questa è la roba che è in ballo, riusciamo anche a dare una risposta appropriata poi alla situazione repressiva. Assolutamente, e forzando forse ancora un po' di più il ragionamento, a me pare di cogliere in alcuni settori del patronato una sorta di progetto neoschiavistico, ovviamente non gli schiavi dell'età antica, ma la riduzione dei lavoratori in condizioni in cui la contrattazione diventa sempre più difficile e l'unica possibilità è quella di accettare supinamente quello che i padroni vari elargiscono sotto forma di elemosina, sotto forma di concessioni. E dall'altra parte, sia tramite l'azione padronale sia tramite l'azione governativa, c'è una tensione a cioè, si cerca di ricostringere al lavoro le persone e ricostringerle al lavoro a condizioni indegne, ad esempio un altro fatto che ho potuto leggere sui giornali ultimamente è che ci sono state delle sentenze contro degli imprenditori che impiegavano della manodopera in maniera praticamente schiavistica, cioè costringendola a lavorare 12 ore al giorno per paghe infime così, e queste sentenze sono state veramente, anche se a noi il carcere non piace, saremmo per la di questo sistema, fa riflettere quando senti che persone che riducono in schiavitù altre persone vengono condannate magari a 2 anni e invece il decreto sicurezza prevede pene, appunto inizialmente prevedeva pene di 12 anni per un blocco stradale, o addirittura si prevedono delle repressioni altissime per cose che a noi sembrano piccole, e invece cose assurde come appunto ridurre delle persone in schiavitù vengono trattate come se fossero delle piccole violazioni alle norme, alla legislazione sul lavoro, e non dei reati di ordine gravissimo. Cioè, questo secondo me un po' ci dà proprio la dimensione di quello che dicevi tu, cioè che c'è il patronato con lo Stato cercano di reimporre delle nuove condizioni estremamente autoritarie, e la risposta non può essere altro che quella dell'unità più larga, della conflittualità e della solidarietà di classe, immagino, e immaginiamo, anche perché invece gli strumenti classici probabilmente tendono a perdere sempre di più capacità di ottenere dei risultati buoni, credo. Sì, direi di sì. Penso però per non buttarci troppo giù va anche sottolineato che tipo questo tipo di risposta repressiva avviene proprio perché degli strumenti, cioè la classe si è data anche tipo degli strumenti di mobilitazione nuovi, efficaci in questi anni, come dire, molta gente ha recuperato salario, diritti, reimposto dignità sul posto di lavoro, molta gente si è ripresa a casa e quindi in qualche maniera non si poteva accettare questa roba qui. Costruito, come dire, un quadro politico in cui c'è la comprensione da parte del proletariato anche bianco italiano, che ha avuto orecchie per le sirene che gli raccontavano tutte le sconfitte, i furti e le sottrazioni di questi anni erano colpa magari della popolazione straniera, quella stessa popolazione straniera che in verità ha fatto fare un passo avanti a tutti, per esempio nel settore della logistica, e va fatto un discorso politico dicendo che questa cosa non riguarda dei furbi, dei prepotenti, chi si è ripreso qualcosa, aggirando le regole stabilite da non so che, e che quindi la repressione di questi settori sociali non porterà nessun vantaggio a nessuno, neanche agli arrabbiati tipo razzisti che adesso pensano di liberarsi votando Salvini. È un discorso appunto politico più largo, ma in realtà senza questo discorso politico più largo non ci sarà la possibilità neanche di avere la tenuta sociale delle cose che abbiamo conquistato fino ad oggi. Anche perché probabilmente, da come si vede un po' la situazione intorno a noi, il conflitto sociale e del lavoro nei prossimi mesi e nei prossimi anni probabilmente andrà approfondendosi ed acuendosi. Se guardiamo ad esempio le previsioni di quelli che sono i maggiori analisti economici del mondo, che dicono che ci sarà una nuova crisi, tutte le questioni legate alla disoccupazione tecnologica e così via produrranno sicuramente degli scontri tra i lavoratori e tra i padroni, in un quadro legislativo e politico cambiato rispetto a quello che abbiamo potuto osservare negli ultimi 10-20 anni, e quindi appunto si pone forte la necessità per tutti noi di trovare delle nuove forme di organizzazione, di lotta, che ci permettano di agire questo scontro, di essere all'altezza dello scontro. Dico questo, sembra una frase un po' retorica. Su questo che dicevi tu, concluderei appunto dicendo una cosa, che persino nell'Ungheria di Orban, con un panorama politico assolutamente devastato, dopo anni di nuova destra nazionalista e razzista tipo al potere, lo scorso dicembre è esploso un movimento largo, pieno di contraddizioni, spurio per tanti aspetti, ma tipicamente di classe, contro la legge sugli straordinari, per mettere dei limiti all'estensione infinita della giornata di lavoro, che ha raccolto delle masse significative per la prima volta in piazza in Ungheria e ha messo in difficoltà per la prima volta dopo anni il governo Orban. Quindi sì, per tornare al tuo discorso, diciamo, sarà del tutto evidente tra poco come i porti chiusi di Salvini non danno da mangiare, e quindi avremo bisogno tipo di tutta l'agibilità politica e sindacale per provare a organizzare diciamo la rabbia che sicuramente ci sarà dopo il risveglio da questa sorta, come dire, di psicosi collettiva.